Ad alta voce, Tommaso Ragno legge I 10 giorni che sconvolsero il mondo, di John Reed, traduzione di Barbara Gambaccini. Le riunioni del Soviet di Pietrogrado proseguivano ininterrottamente giorno e notte. Entrai nella sala mentre Trotsky stava terminando il suo discorso. «Ci chiedono», diceva, «se siamo davvero intenzionati a scendere nelle strade». A tale domanda risponderò con precisione. Il Soviet di Pietrogrado ha compreso che è finalmente giunto il momento in cui il potere deve essere affidato ai Soviet. Tale passaggio si compirà attraverso il congresso pan-russo. Se sarà o meno necessaria un'azione armata dipenderà da quanti decideranno di opporsi al congresso. Sappiamo tutti che l'attuale governo, del tutto impotente e patetico, sarà ben presto spazzato via dalla storia per cedere il posto a un governo eletto dal popolo. Noi faremo di tutto per evitare il conflitto e seguitiamo a sperare che il congresso pan-russo possa impugnare il potere e farsi carico di un'autorità basata sulla libertà organizzata del popolo. Tuttavia, se il governo intenderà utilizzare il poco tempo rimasto, gli quantificabile in 24, 48, al massimo 72 ore per contrastarci, replicheremo a ogni colpo acciaio contro ferro. Precipitatomi al palazzo Mariinsky, vi arrivai quando il discorso appassionato e incoerente di Kerensky, nel quale egli tentava nel contempo di giustificarsi e denunciare i suoi nemici, volgeva al termine. Ritengo giusto citare i brani salienti di alcuni articoli pubblicati sul Rabociput da quel criminale dello Stato che risponde al nome di Ulyanov Lenin, il quale è al momento ancora latitante. In una serie di manifesti dal titolo Lettere ai compagni, costui esorta proletariato e guarnigione di Pietrogrado a reiterare le vicende avvenute il 16 e il 18 luglio, asserendo la necessità di un'immediata sommossa armata. Anche altri leader bolscevichi, presa la parola in una serie di comizi, hanno fatto appello all'insurrezione. In particolare è bene sottolineare l'attività dell'attuale presidente del Soviet di Pietrogrado, Bronstein Trotsky. Su questo intendo insistere affinché il Consiglio della Repubblica capisca che non abbiamo a che fare con l'attività dei semplici partiti, bensì con uno sfruttamento sistematico dell'ignoranza politica e degli istinti criminali della popolazione allo scopo di creare, costi quel che costi, devastazione e saccheggi. Dato l'odierno stato d'animo della popolazione, ciò non sarà difficile da ottenere, poiché qualsiasi movimento a Pietrogrado avrà come conseguenza indicibili massacri che copriranno per sempre di imbarazzo il nome della Russia libera. Secondo quanto ammesso dallo stesso Lenin, l'atteggiamento dell'estrema sinistra dei socialisti rivoluzionari è particolarmente favorevole. Indipendentemente dal fatto che costoro agiscano con o senza coscienza, io, da questa tribuna, con la piena consapevolezza della mia responsabilità, qualifico tali atti come un vero e proprio tradimento verso la Russia. Per questo, in accordo con le opinioni della destra, propongo di procedere immediatamente a un'inchiesta e ai necessari arresti. Tumulto all'estrema sinistra. Ascoltatemi. In questo momento di grave pericolo, il governo provvisorio preferirebbe morire piuttosto che tradire la vita, l'onore e l'indipendenza della Russia. È giunta l'ora che il popolo si renda conto di avere a che fare con un governo forte e deciso, e solo allora, forse, buonsenso, coscienza e onore trionferanno nuovamente nei cuori di coloro che non ne hanno dimenticato il significato. Durante tutto questo discorso, forti clamori si diffusero nella sala. Non appena il presidente del Consiglio, pallido e sudato, discese dalla tribuna, abbandonando l'aula con la scorta, gli oratori della sinistra e del centro attaccarono furiosamente la destra. Capitolo IV. La caduta del governo provvisorio. Mercoledì 7 novembre, quando mi alzai, il sole era già alto. Mentre percorrevo la Nevskij, il rintocco di mezzogiorno risuonò dalla fortezza di Pietro e Paolo. Era una giornata fredda e umida. Innanzi ai cancelli sbarrati della Banca Nazionale, alcuni soldati, baionette in canna, vigilavano. «Da quale parte state?» domandai loro. «Col governo?» «Slava Bogu! Grazie a Dio, il governo è finito!» mi rispose uno sogghignando. Questo fu quanto riuscii a ottenere. I tram sfrecciavano sulla Nevskij, ricolmi di uomini, donne, bambini, tutti diligentemente appesi a ogni protuberanza che potesse esimerli dalla caduta. I negozi erano aperti e la folla pareva meno inquieta rispetto al giorno precedente. Durante la notte nuovi appelli contro l'insurrezione erano fioriti sui muri. Tra questi uno recitava: «Dalla Duma Municipale di Pietrogrado. La Duma Municipale informa i cittadini che durante il Consiglio straordinario del 6 novembre è stato costituito un Comitato per la Pubblica Sicurezza, i cui rappresentanti appartengono alle seguenti organizzazioni democratiche: l'OGIC, il Comitato Esecutivo Panrusso dei Deputati Contadini, le organizzazioni dell'esercito, il Soviet dei deputati soldati e operai di Pietrogrado, il Consiglio dei sindacati e altri ancora. I membri di tale comitato saranno perennemente riuniti nell'edificio della Duma Municipale il 7 novembre 1917. Sebbene al momento non l'avessi compreso, si trattava di una vera e propria dichiarazione di guerra ai bolscevichi. Comprai il Rabot Chiput, unico giornale reperibile a quanto sembrava. Solo più tardi comprai da un soldato per 50 copechi il numero del Dien. L'organo bolscevico, stampato in un grande formato con le macchine sequestrate della Ruskaya Volia, riportava a caratteri cubitali «Tutto il potere ai soviet e degli operai, soldati e contadini, pace, terra». L'articolo principale, firmato da Zinoviev, cominciava così: «Ogni soldato, ogni operaio, ogni vero socialista, ogni persona onesta e democratica può attestare che nell'odierno status quo solo due alternative sono possibili. O si lascia il potere nelle mani dei borghesi e dei grandi proprietari terrieri, nel qual caso operai, soldati e contadini verranno oppressi e la guerra e la fame imperverseranno nel nostro paese, oppure il potere passerà agli operai, ai soldati e ai contadini rivoluzionari, i quali aboliranno tirannia e capitalismo presentando immediate proposte di pace. La terra sarà assicurata ai contadini, l'industria agli operai, il cibo agli affamati e si porrà fine a questo ingiusto conflitto». In merito a quella notte frenetica, il Dien recava notizie frammentarie. I bolscevichi avevano occupato la centrale telefonica, la stazione baltica, l'agenzia telegrafica. Gli Junker di Peterhof sembravano impossibilitati a raggiungere Pietrogrado. Tra i cosacchi regnava l'assoluta indecisione. Pareva che alcuni ministri fossero stati arrestati e il capo della milizia municipale, Mayer, fucilato. Ovunque dilagavano notizie di arresti, controarresti, scaramucce tra pattuglie di soldati, Junker e guardie rosse. Qualcosa di inusuale stava accadendo nei pressi del Palazzo Mariinsky, dove si riuniva il Consiglio della Repubblica. Diagonalmente, attraverso l'immensa piazza, era dispiegata una fila di soldati pronti a sparare, gli sguardi rivolti al tetto dell'albergo. «Provocazione! Hanno tirato su di noi!» gridò uno di loro mentre un altro correva verso la porta. Ferma sull'estremità occidentale del palazzo una grande auto blindata su cui svettava una bandiera rossa con l'iscrizione SRSD, Soviet dei deputati soldati e operai, puntava tutti i suoi cannoni su San Isacco. All'entrata della strada nuova si ergeva una barricata improvvisata con casse, barili, un vecchio pagliericcio, un vagone. Una catasta di legna impediva l'accesso alla banchina della Moika. Lungo la facciata alcuni ceppi raccolti da una vicina catasta formavano una sommaria difesa. «Ci si appresta alla battaglia?» domandai. «Non sarà una lunga attesa», rispose nervosamente un soldato. «Andatevene, compagno, o rischierete di rimanere ferito. Giungeranno da quella parte», aggiunse indicandomi l'ammiragliato. «Chi?» «Questo non posso dirlo», rispose sputando sul selciato. Una folla di marinai e soldati ostruiva l'entrata del palazzo. Uno di loro stava raccontando la conclusione del Consiglio della Repubblica. Siamo arrivati dislocando compagni a tutte le porte. Poi mi sono avvicinato al controrivoluzionario seguace di Kornilov che occupava la poltrona del presidente. Il consiglio è terminato, l'ho avvertito. Tornatevene immediatamente a casa. Tutti cominciarono a ridere. Esibendo le carte necessarie, riuscii a raggiungere la porta della galleria della stampa. Là, un enorme marinaio mi si frappose sorridendo e guardando il mio salvacondotto mi disse: «Ah, che se foste San Michele in persona, non passereste, compagno!» Attraverso la porta a vetri ebbi modo di riconoscere un corrispondente francese, il volto contratto dalla rabbia. Era rinchiuso all'interno. Poco lontano, un piccolo uomo, baffi grigi e uniforme da generale, sostava al centro di un gruppo di soldati. Appariva paonazzo per la collera. «Sono il generale Alexiev», gridava. «In qualità di vostro superiore, nonché di membro del Consiglio della Repubblica, esigo che mi lasciate passare!» La sentinella, grattandosi la testa, lanciò uno sguardo imbarazzato a un ufficiale altrettanto confuso nel realizzare chi avevano innanzi. «E, eccellenza», balbettò, rispolverando la formalità tipica del vecchio regime, «l'accesso al palazzo è strettamente proibito. Io non ho alcun diritto». In quel momento arrivò un'automobile. Al suo interno, Goetz sembrava in preda al divertimento assoluto. Qualche minuto dopo comparve una seconda vettura stipata di membri del governo provvisorio in stato di arresto e militari armati. Peters, membro lettone del comitato militare rivoluzionario, attraversò di corsa la piazza. «Credevo», gli dissi, indicando l'auto, «che quei signori fossero stati messi al sicuro ieri sera». «Oh», rispose con un'espressione di infantile disapprovazione, «quei dannati pazzi permettono loro di allontanarsi prima che noi possiamo avere il tempo di intervenire». I marinai erano appostati lungo tutta la prospettiva Voskresensky e fin dove lo sguardo poteva arrivare si distinguevano i soldati in marcia. Ci dirigemmo verso il palazzo d'inverno attraverso l'ammiragliato. Gli accessi alla piazza del palazzo erano tutti sorvegliati da sentinelle e un cordone di truppe ne sbarrava l'estremità occidentale, assediata da una folla agitata. Sulla piazza, fatta eccezione per alcuni soldati intenti a trasportare legna dal cortile del palazzo per impilarla davanti all'ingresso principale, gravava una strana quiete. Impossibile stabilire se le sentinelle fossero al servizio del governo o del Soviet. I documenti fornitici a Smolny non sembravano di alcun valore, per cui, assunto un contegno autoritario irreprensibile, ci avvicinammo a un altro ingresso, mostrando i nostri passaporti americani e dicendo: «Incarico ufficiale». Alla porta del palazzo, sempre gli stessi uscieri di prima, nelle loro uniformi azzurre, dai bottoni di rame e i colletti rosso e oro. Liberatici dai cappotti e cappelli, ci invitarono a salire. Nell'oscuro e cupo corridoio, privo di tappezzeria, incontrammo alcuni anziani custodi disoccupati. Di fronte alla porta di Kerensky, un giovane ufficiale camminava avanti e indietro, mordicchiandosi i baffi. Alla nostra richiesta di intervistare, il presidente del consiglio si inchinò e, uniti i talloni, rispose in francese: «No, mi dispiace, Aleksandr Fedorovich è molto impegnato in questo momento». Poi ci esaminò un istante prima di aggiungere: «In realtà non è qui». «E dove si trova?» «È partito per il fronte. Non c'era benzina per la sua automobile, abbiamo dovuto farcene prestare una dall'ospedale inglese». «I ministri sono qui?» «Sono in seduta, ma non so in quale aula». «I bolscevichi stanno per venire?» «Non c'è dubbio. Attendo da un minuto all'altro una telefonata che ne annunci il sopraggiungere, ma siamo pronti. Abbiamo degli Junker nel palazzo, là, dietro quella porta». «Possiamo entrare?» «No, non hai permesso». Strette le nostre mani, si allontanò. Ci voltammo verso la porta proibita, ritagliata su un divisorio improvvisato che ripartiva il corridoio in due parti. Nel silenzio tombale diffuso nel resto del palazzo, le voci e le risate provenienti da quella stanza chiusa echeggiavano con chiarezza. Un vecchio usciere accorse dicendo: «Non si può entrare, Barin!» «Perché avete chiuso a chiave?» «Per non far uscire i soldati!» Pochi minuti dopo, con la scusa di prendere un bicchiere di tè, si allontanò. Fu a quel punto che, girata la chiave, ci decidemmo ad aprire la porta. I soldati di guardia dall'altra parte non ci rivolsero parola. All'estremità del corridoio, un'ampia stanza disseminata di cornici dorate ed enormi lampadari di cristallo, poi una serie di camere più piccole, decorate con legno scuro. Su entrambi i lati del pavimento erano allineati materassi e coperte sporche su cui giacevano alcuni soldati. Sul pavimento uno strato di mozziconi di sigarette, avanzi di pane, vestiti e bottiglie vuote che recavano le etichette di costose case di produzione francesi. Innumerevoli soldati con le spalline rosse delle scuole del Junker si muovevano in quell'atmosfera resa pungente dall'odore del tabacco e dalle esalazioni di un'umanità mal lavata. Uno di loro teneva in mano una bottiglia di borgogna, chiaramente sottratta alle cantine del palazzo. Mentre attraversavamo le sale ci osservarono con malcelato stupore. Raggiungemmo una serie di grandi saloni, le cui finestre alquanto imbrattate volgevano sulla piazza. Sulle mura, immensi quadri con cornici in oro massiccio raffiguravano scene di famose battaglie. 12 ottobre 1812, 6 novembre 1812, 12 agosto 1813. Uno di essi mostrava un grande strappo sull'angolo destro. Quei saloni, come si poteva constatare dalla trascuratezza in cui versavano, erano da tempo mutati in caserma. Alcune mitragliatrici erano state posizionate sui davanzali delle finestre e numerosi fucili giacevano accatastati tra i pagliericci. Nell'osservare i quadri, percepii un acuto odore di alcol provenire dalla mia sinistra e nel contempo una voce profonda articolare in un francese fluente: «Vedo, dal modo in cui ammirate i quadri, che siete stranieri». Quelle parole provenivano da un uomo basso, paffuto e calvo, che ci salutò togliendosi il berretto militare. «Siete americani? Felice di conoscervi. Sono il capitano di Stato Maggiore Vladimir Artsibashev. A vostra disposizione». Non sembrava stupito dal fatto che quattro stranieri, tra cui una donna, avessero oltrepassato indisturbati le difese di un esercito che oltretutto reputava imminente l'attacco del nemico. Si limitò invece a deplorare la situazione russa. «Ah, non si tratta solo di questi bolscevichi», affermò. «Perfino le buone tradizioni dell'esercito russo sono state ormai cancellate. Questi allievi delle scuole di ufficiali vi paiono forse gentiluomini? Kerensky ha consentito l'accesso alle truppe a qualsiasi soldato capace di superare un esame. Tra questi, molti sono contaminati dalla rivoluzione». Poi passò a un altro argomento. «Vorrei lasciare la Russia e entrare nell'esercito americano. Forse potreste accennare la cosa al vostro console e facilitarmi il trasferimento. Vi darò il mio indirizzo». Nonostante le nostre proteste, non appena lo ebbe scritto su un pezzo di carta, parve sollevato. «Conservo ancora quell'indirizzo. Scuola dei cadetti d'Oranienbaum. Praporshikov 2 Staraya Peterhof». In quel momento si udì nelle vicinanze una scarica di colpi di fucili e immediatamente il panico si diffuse in tutta la piazza, inducendo taluni a una rapida fuga, talaltri a gettarsi ventre a terra. I vetturini che sostavano all'angolo delle strade si allontanarono in tutte le direzioni. All'interno dell'edificio imperversava la medesima confusione. I soldati correvano avanti e indietro, afferrando frettolosamente fucili e cartucce, gridando «Arrivano! Arrivano!». In realtà furono sufficienti pochi minuti perché la quiete si ristabilisse, i vetturini riprendessero i loro posti e coloro supini si rialzassero. Alcuni Junker oltrepassarono l'arco rosso. Non marciavano al passo come di consueto. Uno di loro sembrava sostenersi ai compagni. Era tardi quando lasciammo il palazzo. Scomparse le sentinelle, il semicerchio di palazzi governativi appariva deserto. Tornammo all'Hotel France per la cena. Ci accingevamo a consumare una zuppa quando il cameriere, avvicinatosi con aria stravolta, insistette affinché ci spostassimo nella grande sala in fondo, così da poter spegnere le luci del caffè. «Presto si combatterà», si giustificò. Quando uscimmo, la Morskaya era immersa nell'oscurità. Un solo lampione a gas illuminava fiocamente l'angolo con l'Agnevski, dove un grosso velicolo carrozzato col motore acceso e una nuvola di fumo denso che fuoriusciva dal tubo di scappamento sostava. Un ragazzo, arrampicato sul fianco, esaminava la canna di una mitragliatrice. Alcuni soldati e marinai tutto intorno parevano in attesa di qualcosa. Presso l'arco rosso, un gruppo di soldati, lo sguardo rivolto alla facciata sfarzosamente illuminata del palazzo d'inverno, discuteva animatamente. «No, compagni», sosteneva uno, «come possiamo sparare? Là dentro c'è anche il battaglione femminile e ben presto circolerà la voce che abbiamo aperto il fuoco sulle donne russe». Sulla Nevsky incontrammo un'altra auto blindata. Un uomo, la testa fuori della torretta, gridava «Forza! È giunto il momento di attaccare!» Ma l'autista della prima macchina carrozzata, avvicinatosi, lo contraddisse urlando per superare il fracasso del motore. «Il comitato ha detto di aspettare. Hanno piazzato dell'artiglieria laggiù, dietro le cataste della legna». In quella zona i tram non circolavano più, i passanti erano rari e le luci spente. A poca distanza, tuttavia, la vita sembrava procedere con normalità. Si potevano vedere i tram in movimento, una discreta folla, le vetrine illuminate, i cartelloni pubblicitari elettrici dei cinematografi. Tutti i teatri erano aperti. Avevamo perfino i biglietti per il balletto del Teatro Mariinskij, ma devo ammettere che ciò che accadeva fuori era molto più eccitante. В любовь и увлекаться, когда ты день и ночь мечтаешь о другом.